Letture di Radio 24. Si è riaccesa la tensione tra le due Coree. Dietro l'attacco di Pyongyang a Seul si nascondono sofisticati giochi diplomatici. Secondo molti osservatori, all'indomani dell'attacco nordcoreano alla Sud Corea, sarebbe pronto l'intervento chirurgico degli Stati Uniti. Ma come reagirebbe Pechino dopo il deterioramento dei rapporti con l'amministrazione Obama? La domanda è una sola. A quando l'attacco chirurgico Stati Uniti contro Corea del Nord? L'opzione, a lungo accarezzata dall'amministrazione Bush e per un certo periodo forse addirittura favorita da Pechino, era stata archiviata da Obama in quanto in contrasto con la nuova politica del dialogo. Oggi sta tornando prepotentemente alla ribalta e all'indomani dell'ennesima provocazione nordcoreana, il bombardamento di un'isola sudcoreana al largo di un confine marittimo che il Nord non ha mai accettato, il conto alla rovescia, secondo molti osservatori, è già cominciato. Al Pentagono scalpitano per fermare le ambizioni nucleari di Pyongyang. Alla Casa Bianca molto meno, anche perché, viste le passate esperienze, un'operazione chirurgica ai confini della Cina non è senza rischi. E poi bisogna vedere come reagirebbe oggi Pechino. Fino a pochi mesi fa, tutto sommato, la Cina avrebbe anche messo la firma a sbarazzarsi, direttamente o indirettamente, dell'ormai insopportabile, scomodo e pericoloso alleato. Ma ora? Il progressivo deterioramento delle relazioni con gli Stati Uniti, sfociato nella guerra delle terre rare e nel fallimento totale dell'ultimo G20 a Seul, potrebbe aver convinto i dirigenti cinesi ad allentare il guinzaglio del mastino nordcoreano, consentendogli non solo di minacciare, ma anche di bombardare l'isola di Yeonpyeong, che con altre isole è contesa a Seul da oltre 50 anni. Un gioco pericoloso, osservano gli esperti, tanto più che Pechino in questo momento non può permettersi di creare altre tensioni con Washington. Però è un fatto che sono sempre di più i dirigenti cinesi che anche in pubblico dichiarano di essere stufi di subire l'arroganza di una superpotenza indebitata fino al collo, che paga i propri debiti con carta straccia e che, nonostante tutto ciò, pretenda di continuare a dominare il mondo. Certo, gli Stati Uniti non possono permettersi di aprire un altro fronte e magari ritrovarsi in un nuovo Iraq. E alla Casa Bianca sono ovviamente consapevoli di questo rischio e lasceranno che sia la diplomazia internazionale a risolvere la matassa coreana. Tanto più che a Pyongyang nulla si muove senza l'approvazione più o meno esplicita di Pechino. Così sono in molti a ritenere che del recente attacco contro la Corea del Sud Pechino sia stata opportunamente informata. Insomma, tra le due Coree la partita resta perennemente aperta. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Corea contro Corea, pubblicato a firma di Pio D'Emilia sull'Espresso del 2 dicembre. Letture di Radio 24. L'Istituto Nazionale di Valutazione Scolastica, valutando i compiti dei maturandi, è arrivato ad un'amara conclusione. I ragazzi italiani sono ultimi in matematica. Da questa statistica si apprende che più del 50% degli studenti nei licei scientifici non raggiunge la sufficienza e le capacità logico-argomentative sono scarse. È il crollo di un mito. Il liceo scientifico, la scuola d'élite dei teenager, fucina dei futuri ingegneri, architetti, matematici, fisici, chimici, cade sotto il peso dei risultati dell'analisi invalsi sugli elaborati di matematica, consegnati dai giovani all'esame di maturità dell'anno scorso. Diciamolo subito, il 54,5% è insufficiente. Più di un ragazzo su due iscritto a un liceo che dovrebbe essere d'eccellenza non raggiunge la sufficienza non nella prova di italiano, non in quella di filosofia, ma nella materia nella quale dovrebbe essere al top. La matematica. L'Invalsi è l'Istituto Nazionale di Valutazione dell'Apprendimento Scolastico, fino a pochi anni fa un sonnacchioso ente para inutile che oggi è diventato la coscienza critica della scuola italiana. Ha il compito di correggere e ricorreggere i compiti degli studenti e verificarne i livelli di apprendimento, controllando che i voti delle commissioni d'esame siano adeguati alle conoscenze. Ma il suo ruolo è anche altro. I docenti dei ragazzi che passeranno meglio i test Invalsi guadagneranno fino a una mensilità in più all'anno. A fare fede, stando al progetto del ministro della Pubblica Istruzione, Maria Stella Gelmini, non saranno i giudizi delle commissioni, bensì quelli dei formulari standardizzati a cura dell'istituto. Ecco perché, da amena discussione in sala professori, i risultati degli INVALSI iniziano a essere visti con terrore. E una ragione c'è: sono imbarazzanti. Spesso ci si consola pensando che esistono le eccellenze, ragazzi che alzano la media, il morale dei genitori e la busta paga dei docenti. Non proprio. Secondo le commissioni d'esame, quelli che hanno preso voti eccellenti nella prova di matematica sono il 22% del totale, mentre per gli INVALSI sono appena il 7%. Anche se i ragazzi dei licei scientifici non sono dei fulmini di guerra in matematica, almeno sanno ragionare, sperano i genitori. Sanno usare la logica e la deduzione, uno dei compiti che si prefigge lo studio della matematica. Niente da fare. Per gli INVALSI, il 68,7% dei maturandi ha insufficienti capacità logico-argomentative. Le maggiori debolezze dei nostri ragazzi si hanno quando viene loro chiesto di argomentare, spiegare, motivare le proprie affermazioni. E molte difficoltà derivano dall'incapacità di leggere, comprendere, decodificare adeguatamente testi di varia natura, spiega sconfortata Elena Ugolini, uno dei tre membri del consiglio di indirizzo dell'INVALSI. Queste difficoltà le riscontriamo anche negli esiti delle prove di matematica e di comprensione della lettura fatte nella scuola primaria e secondaria di primo grado e indicano un punto di lavoro molto chiaro per gli insegnanti. Gli unici dati ai quali aggrapparsi per restare ottimisti sarebbero quelli sul divario nord-sud. I ragazzi del mezzogiorno hanno, almeno per quel che riguarda le conoscenze specifiche, cioè la matematica in senso stretto, un voto medio assegnato dall'INVALSI e non dalle commissioni esaminatrici di 6,1 rispetto al 5,9 dei ragazzi del nord e al 5,7 dei ragazzi del centro e a un 65,4% del nord. Come mai? Probabilmente al sud solo i ragazzi capaci vanno al liceo scientifico, mentre al nord si iscrivono anche coloro che arrivano a stento alla maturità. Ma è solo un'interpretazione. Potrebbe davvero essere che al sud i ragazzi sono più bravi in matematica. Beati i loro professori. Avete ascoltato la lettura dell'articolo «I ragazzi italiani sono gli ultimi in matematica», pubblicato a firma di Marco Cobianchi su Panorama del 2 dicembre. All'Istituto Sassetti Peruzzi di Firenze, una scuola statale con indirizzo turistico-commerciale, il 70% dei ragazzi iscritti è composto da stranieri e di questi 8 su 10 sono cinesi. Impossibile rispettare il tetto del 30% di alunni stranieri per classe previsto dalla circolare ministeriale. In più, gli studenti stranieri nelle classi miste hanno altissimi tassi di bocciatura, con conseguente abbandono degli studi. Cosa è venuto in mente al preside? Costituire una classe tutta cinese non per ghettizzare, ma per abbattere la sensazione di disagio degli studenti stranieri. Un paradosso che pare funzionare. Le bocciature sono dimezzate. L'esperimento si basa su un paradosso. I cinesi tendono a chiudersi nella loro comunità? Hanno difficoltà di comunicazione con gli italiani? E allora proviamo a farli stare fra loro, a curarli con la loro stessa debolezza. Proviamo a vedere se invece di sentirsi spaesati e di andarsene al primo ostacolo, invece di essere bocciati e quindi tornare nelle fauci delle comunità lavoro, si affezionano all'idea della scuola, studiano, allargano gli orizzonti, diventano adolescenti liberi e alla fine più aperti degli altri e più integrabili. Ecco, è nata così l'idea di formare una sezione per soli cinesi all'Istituto Sassetti Peruzzi di Firenze, una normale scuola secondaria statale con indirizzo turistico-commerciale. Scavalcando la circolare ministeriale che imporrebbe un massimo del 30% di stranieri in una classe, il preside ne ha formata una con il 100% di cinesi. Ha cominciato l'anno scorso ed i risultati, dice, sono già incoraggianti. Nelle classi miste, spiega Saverio Craparo, il preside, il tasso di promozioni raggiungeva al massimo il 25%. Nella classe monoetnica, invece, le promozioni sono raddoppiate. A mettere a punto il progetto, che sarà valutato dall'Università di Siena, è stato un professore della scuola, che è anche psicologo. E la discussione nel collegio dei docenti è stata molto dura. Prima di tutto c'è il rischio di una ulteriore ghettizzazione, dicono i professori contrari. E poi bisogna vedere alla fine del percorso se si integrano di più così o se invece restano isolati e meno preparati dei ragazzi italiani. Vedremo al termine dell'esperimento, dicono gli ideatori, ma il ghetto c'era prima, replica il professore psicologo Massimo Barbieri, quando erano bocciati in massa, uscivano dalla scuola e venivano richiamati a lavorare dai genitori. Più riusciamo a tenerli dentro il percorso scolastico, più saranno in grado di integrarsi e uscire dal chiuso della comunità cinese. La scuola non è molto distante dalla zona in cui si trova la più grande comunità cinese dell'area fiorentina. I ragazzi, se intervistati, spiegano quasi tutti che dopo la scuola devono aiutare i genitori nelle ditte di pelletteria o nei negozi affini. Non sanno bene l'italiano, o perché sono arrivati da poco o perché stanno isolati nella loro comunità. Per questo hanno difficoltà ad inserirsi nelle classi miste e per questo l'esperimento della Sassetti Peruzzi prevede di formare le classi non sulla base delle conoscenze nozionistiche, ma per aree omogenee di padronanza della lingua italiana. I ragazzi possono ovviamente scegliere se stare nella sezione mista o in quella dedicata a loro, ma tutti quelli che all'inizio hanno accettato con perplessità, una volta arrivati in seconda e con voti più accettabili, hanno deciso di restare. Come i professori. Quando l'ho saputo, ho chiesto subito un appuntamento al preside. Volevo farmi spostare, racconta la professoressa di lettere della sezione cinese. Ma dopo il primo giorno ho cambiato idea. La cosa ha cominciato subito ad appassionarmi. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Firenze, in classe tutti cinesi, soluzione contro l'isolamento, pubblicato a firma di Geraldina Fichter su QN Quotidiano Nazionale di lunedì 29 novembre.